che sì, ma lo usavano per le autobulanze, insomma, questa roba qua. Ma se mi ricordo io, poi non lo so, mi sono confusa, ma più o meno sì, dai. Tu, che fai il giorno, con cosa stai utilizzando? Cosa? Allora, cosa hai? Io ho un grande A34, un po' vecchiotto, dai. Ma quello già sta andando ancora. Sono diventato, sono diventato vecchiotto. Alimentazione, sì, sì. Non dovrebbe, però non dovrebbe, la RAI, ma sono più anche le private. No, no, la RAI solo già. Questo anche le invecchia ovviamente di tutti i canali. Allora,

Yeah. Sì, sentiamo allora.